Abbiamo seguito la presentazione di Dialoghi di profughi di Bertolt Brecht con Lino Guanciale, la musicista Renata Lajkó. Vorremmo adesso chiederle, direttore, più in generale, di parlarci di questa nuova stagione, a partire dal nome, che è la formula narrativa canonica rovesciata, Una volta c'era. Grazie, credo che proprio la messa in scena di Dialoghi di profughi si presti a essere una sorta di introduzione o chiave di volta attraverso cui guardare l'intera stagione dedicata all'Una volta c'era, per l'appunto. Quando abbiamo riavviato le attività teatrali nel giugno scorso, e in quell'occasione per l'appunto presentammo in collaborazione con Radio 3 la prima versione di Dialoghi di profughi con Lino Guanciale e Renata Lajkó, al centro della nostra riflessione c'era la volontà di rivendicare la funzione pubblica del teatro, non tanto la funzione pubblica dei teatri pubblici quanto la funzione pubblica del teatro tout court. In quanto il teatro è un luogo dove una comunità si raccoglie, è un luogo generatore di cultura, è un luogo generatore di pensiero, è un luogo generatore di progettualità e di sguardi, non soltanto sul passato, ma anche e soprattutto su quello che ci sta davanti. Una delle principali funzioni pubbliche del teatro credo sia quella di raccontare delle storie. Perché parlo del raccontare storie come di una funzione pubblica? Perché raccontare storie è un gesto apparentemente innocente, ma di fatto fortissimo da un punto di vista culturale, perché significa mettere in relazione degli eventi, significa cercare di mettere ordine nel caos dell'esistere. E credo che il mondo che noi stiamo vivendo oggi sia un mondo che più che mai ha bisogno di storie, ossia di mappe per affrontare la nostra immediata contemporaneità e il futuro che abbiamo davanti agli occhi. Una volta c'era ci parla di questo, ci parla di un teatro che racconta delle storie, storie che ovviamente non possono che essere straniate, secondo il grande esempio, il grande modello brechtiano per l'appunto, cioè storie che si confrontano con la criticità della nostra contemporaneità.